E allora 17:30 minuti dagli 87,9 di Radio Onda Rossa. E tra qualche minuto andrà in onda la puntata odierna di Impatto, oggi lunedì 14 ottobre. E ricordiamo i contatti della radio per chi si fosse messo in contatto in ascolto solo adesso: il 4906 49 17 50 è il numero di telefono. E poi ricordiamo insomma di sottoscrivere al conto corrente di Radio Onda Rossa, perché questa radio non campa d'aria e non ha pubblicità e non ha padroni. E quindi il conto corrente postale è numero 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00 185 Roma. E questo è il conto corrente col quale contribuire e sottoscrivere per il funzionamento di questa radio, che dà voce a chi non ha voce. E questa trasmissione Impatto dà voce ai comitati che si battono contro le nocività. E settimane molto intense, anzi ormai più di un mese molto intenso, proprio sul versante dello smaltimento dei rifiuti. Ma insomma questa settimana vede anche moltissime mobilitazioni dislocate su tutto il territorio nazionale, quindi una settimana lunga di iniziative che culmineranno il 19 ottobre con il corteo. Io riassumo brevemente la scaletta di oggi per questa trasmissione, che vede la redazione d'Impatto in numero ridotto, e parleremo insomma delle questioni che fortunatamente vanno sempre più intrecciandosi, e anche le mobilitazioni proprio sullo smaltimento dei rifiuti. Avremo delle corrispondenze da Albano in relazione all'iniziativa di sabato 19 ottobre, sabato mattina, cioè un presidio davanti ai cancelli della discarica di Roncigliano per denunciare le terribili condizioni di vita che si sono determinate da un mese a questa parte. Ne parleremo con Daniele, che insomma farà il quadro della situazione per quanto riguarda questa vertenza e questa criticità che è esplosa negli ultimi mesi. Parleremo dell'iniziativa che questa settimana, mercoledì 16 ottobre, si terrà invece sempre sulla Via Ardeatina, ma un po' più vicino Roma, per quanto riguarda il no alla discarica della Falcognana, un'iniziativa correlata, che è strettamente correlata e vede protagonista l'azienda che già ha la proprietà della discarica Ecofer, nota azienda di autodemolizioni e discariche. Chiuderemo invece con un aggiornamento, e anche con un aggiornamento sulle iniziative da Cupinoro, estrema periferia del comune di Bracciano, che però insomma si appresta ad accogliere una parte dei rifiuti prodotti dalla capitale, dalla città di Ciampino e dalla città di Fiumicino. Come sapete, la discarica di Falcognana ancora non è entrata in funzione, semmai lo entrerà, e invece il comune di Bracciano e il suo sindaco hanno deciso di portare dentro questa discarica, che è comunale, una parte dei rifiuti indifferenziati della città di Roma. Mando la sigla e ci risentiamo tra qualche minuto. Popolo, voi che te se messo in testa, ma che voi? Voi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? So mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa! E dopo un piccolo inconveniente tecnico torniamo in onda, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questo è Impatto. E avevamo insomma parlato della scaletta, scaletta che è tutta concentrata su questo mese infernale che l'estrema periferia romana e la sua provincia stanno vivendo in relazione al Toto di Scarica, al post Malagrotta. Come sapete tutti, insomma, ormai sono più di 2 settimane che la giunta Zingaretti e il commissario Sottile da 2 settimane avevano parlato della necessità di una nuova discarica sempre sull'asse dell'Ardiatina, utilizzando un sito già presente che è quello della Ecofer per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle demolizioni delle autovetture. E parallelamente su tutto il territorio si sono accelerate e sono cresciute le criticità delle discariche che invece già esistono e già vertono su quel territorio da più di 30 anni. E infatti ormai da quasi un mese nel quadrante della Via Ardiatina, 9 chilometri più in là rispetto al progetto di discarica della Falcognana, a Roncigliano si sta vivendo una situazione che è assolutamente drammatica. Il fortissimo odore, la puzza, questa nube tossica che si sprigiona dal settimo invaso ha notevolmente aumentato di portata, producendo una invivibilità del territorio circostante più limitrofo. Un'invivibilità che ha prodotto nelle ultime 2 settimane una serie di iniziative spontanee da parte dei residenti che già insomma hanno denunciato l'irregolarità del settimo invaso, quello attualmente funzionante che sta causando tutti questi problemi. Aveva denunciato queste irregolarità e le irregolarità hanno prodotto una situazione sanitaria veramente intollerabile. In più, ad aggravare questa situazione ci si è messo il passato ministro dell'ambiente Corrado Clini, che durante il governo Monti ha redatto uno stupendo decreto per alleggerire la discarica di Malagrotta di volumetrie di rifiuti indifferenziati, dirottandole sugli impianti di MB, gli impianti di selezione e stabilizzazione del rifiuto indifferenziato della provincia e delle province della regione. Questa operazione, nel caso specifico di Roncigliano ad Albano Laziale, sta producendo un assoluto collasso del sistema di smaltimento e il sovrastoccaggio dei rifiuti. Anche quella parte, che soprattutto quelle parti che sarebbero dovute tornare alla discarica di Malagrotta, invece vengono allegramente sversate all'interno del settimo invaso, hanno prodotto un'accelerazione dei processi di fermentazione, causando lo sprigionarsi di nubi ancora più puzzolenti, ancora più tossiche, ancora più perniciose, che insomma non si stanno diradando nemmeno alla faccia dei numerosi interventi che la Pontina Ambiente, azienda di proprietà del boss RAS dei rifiuti Maglio Cerroni, sta cercando di mettere in campo. E infatti sono ormai più di 2 settimane che si vedono gli addetti della discarica spargere attraverso degli erogatori che già insomma erano stati montati precedentemente quantità di profumo per cercare di mischiare e nascondere e soffocare il male odore. Questa operazione non fa che aggravare la crisi sanitaria, perché insomma coprire la puzza con un deodorante con un'essenza altrettanto fastidiosa sta provocando tra l'altro un mix che rende l'aria ancora più irrespirabile. E poi tra l'altro sempre l'azienda di Maglio Cerroni sta pagando in questi giorni un gruppo scientifico tecnico che sta facendo per suo conto delle rilevazioni dei campioni d'aria proprio intorno alla discarica, probabilmente per cercare di tutelarsi dai problemi legali che questa operazione a breve sicuramente porterà ai gestori della discarica, perché la situazione ambientale è precipitata e le persone, gli abitanti del circondario vengono ricoverati negli ospedali della zona, producendo parecchio clamore e parecchie polemiche sulla stampa e sui media tradizionali, con uno scaricabarile di responsabilità istituzionali che ha insomma abbastanza del vergognoso. Questo è un piccolo quadro della situazione. Noi cerchiamo di metterci in contatto con Daniele ad Albano per avere una notizie più precise e per insomma capire come si inserisce questo presidio di sabato 19 ottobre davanti ai cancelli di scarica in questo contesto veramente maleodorante. E quindi ci risentiamo tra un minuto. We'll be right back. E allora, come avevamo annunciato in precedenza, abbiamo in collegamento Daniele da Albano per parlarci dell'iniziativa del 19 e della grave situazione sanitaria ed ambientale che si sta producendo e si sta consumando nella zona di Roncigliano ad Albano Laziale. Pronto Daniele, ci sei? Pronto Daniele? Ciao Paolo, mi sentite? Sì, no, adesso Paolo, ti sentiamo bene, insomma ti ringraziamo per essere qui con noi dai microfoni di Radio Onda Rossa. Stavamo appunto parlando poco fa della situazione che da un mese, da più di un mese si è via via andata ad aggravare nel quadrante della discarica di Roncigliano ad Albano Laziale. Ne avevamo anche parlato in realtà un po' nelle settimane passate, però sia la gravità dei fatti che accadono in quel quadrante e quindi pure insomma da lì probabilmente è nata la necessità di rispondere a questa situazione, che poi tra l'altro da molte riflessioni fatte non è poi nemmeno così scontato che quello che sta succedendo sarebbe successo, perché insomma gli elementi per prevedere questa catastrofe c'erano tutti da lontano, mi pare 2008, quando aprì il settimo invaso a 170 metri dalla prima abitazione. Insomma sono passati insomma non sono passati nemmeno 2 anni e insomma la vicinanza del settimo invaso fa registrare tutta la sua drammaticità. E proprio per questo insomma sabato 19 ottobre c'è un presidio davanti alla discarica di Roncigliano. Ma se invece ci puoi parlare di quello che è successo venerdì sera, perché insomma come hanno riportato alcuni giornali c'è stato un problema abbastanza serio, visto che parecchie decine di persone si sono rivolte al pronto soccorso. Sì Paolo, è proprio così. Diciamo nell'ultimo mese la situazione è diventata davvero insostenibile, parlo dei miasmi, quindi degli odori insopportabili che vengono sprigionati dal più recente invaso, quindi il settimo, che sarebbe l'ottava buca della discarica di Roncigliano, considerando la zero che è stata costruita appena avviata alla fine degli anni 70, discarica che riceve tutti i rifiuti dei 10 comuni del bacino dei Castelli Romani, quindi area sud di Roma, e più dal 25 gennaio, quindi dall'entrata in vigore del decreto cosiddetto Clini Sottile, anche buona parte della spazzatura di Roma, Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano. Quindi ci aggiriamo intorno, almeno a livello nominale, alle 450 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno totali che arrivano in questa discarica, 300 locali e 150 insomma per la frazione romana. E nell'ultimo mese, come hai detto te, la situazione di questi odori è divenuta davvero insostenibile. La puzza per la prima volta viene avvertita distintamente, proprio chiaramente, a diversi chilometri di distanza, quindi parliamo di distanze anche di 5, 6, 7 fino a 8 chilometri di distanza. Quindi io per chi conosce la zona, la discarica si trova sulla via Ardeatina, proprio al confine fra il comune di Arde e il comune di Albano. Ecco, la spazzatura è stata sentita proprio, la puzza della spazzatura è stata avvertita nel centro storico di Albano, di Ariccia, nel centro storico di Genzano, di Castel Gandolfo, quindi i noti centri dei Castelli Romani, insomma penso a Castel Gandolfo appunto, il lago, Ariccia, le Fraschette, insomma tutti i centri storici sono stati comunque inondati ormai di diverse settimane da questa puzza insostenibile. Ma già alla fine di settembre insomma si era creato, avevamo anche già parlato della situazione grave che si era creata martedì 24 settembre, i giorni immediatamente a seguire, con l'escalation che poi insomma ha prodotto un sit-in spontaneo sotto casa del sindaco venerdì sera 27 settembre. Venerdì scorso, fra venerdì, sabato e domenica, si è ripetuta una nuova pesantissima ondata di ovezzi insostenibili, e soltanto fra venerdì notte e sabato mattina circa 25 persone si sono recate al pronto soccorso di Albano. Il caso più grave, un bambino di circa 12 anni, se non ricordo male, in codice giallo, che aveva la pressione minima sopra a 100, con conati di vomito, mal di testa, insomma, e insieme a lui insomma tutta un'altra serie di persone, comunque tutte con la pressione minima sopra 100, una serie di episodi spiacevoli, da svenimenti, nausea, mal di testa, vomito, tutti quanti insomma dimessi soltanto all'alba di sabato mattina, con una prognosi che andava dai 3 ai 9 giorni. Stessa cosa insomma che si è ripetuta anche sabato e domenica per un altro altre 10 persone in totale, che sono però sono andate insomma in diversi pronto soccorsi, in modo particolare insomma nei punti di primo soccorso di Pomezia ed Aprilia. Quindi la situazione è veramente grave, è degenerata, insomma chiaramente cozza anche con le dichiarazioni recentissime dell'amministrazione di Albano, che invece ha fatto sapere che sostanzialmente non ha riscontrato, leggo proprio testualmente, nulla di anomalo nel funzionamento dell'impianto di discarica di Albano. Ecco, questo è il delegato dei rifiuti del comune d'Albano, Luca Andreazzi. E insomma non ci stupiamo più delle dichiarazioni degli amministratori locali, abbiamo spiegato bene il sistema di debiti che strangola i comuni e che produce questa connivenza di interessi che fa sì che non vengano rispettate nemmeno le minime regole di sicurezza per la salute delle persone che abitano intorno alla discarica. Insomma, non osiamo immaginare a cosa possa portare un'esposizione prolungata a questo tipo di odori, che insomma sono a tutti gli effetti delle nubi tossiche. Insomma, se uno ha dei malori soltanto dopo poche ore di permanenza, figuriamoci insomma un'esposizione prolungata nel tempo di questa roba, cosa può combinare all'organismo, all'ambiente, e quindi insomma è sintomatico che si cerchi di nascondere una situazione che è diventata ormai gravissima dal punto di vista sanitario, sulla quale non si può scherzare. E infatti sta montando sicuramente la rabbia della popolazione per questo tipo di politica, questo tipo di situazione, che però insomma era ampiamente prevedibile, perché i dati fondamentali, cioè la distanza dai centri residenziali e il sovrastoccaggio prodotto dal decreto Clini, questo mix di fattori insomma era già stato denunciato che avrebbero portato in breve tempo al collasso e a una situazione di emergenza sanitaria di quel quadrante. E quindi insomma da questi microfoni e i comitati che insomma si erano spesi contro la decisione del ministro Clini di portare avanti questa operazione, poi insomma si sta rivelando in tutta la sua drammaticità, perché gran parte dei problemi sono causati dal sovrastoccaggio dentro quel sito, che insomma non è adatto ad accogliere quantitativi, non è adatto per nulla ad accogliere quantitativi così grandi di immondizia, e poi soprattutto questa immondizia di cui si favoleggia tanto il trattamento, altra assoluta menzogna che insomma da parecchi anni a questa parte si sta cercando di sputtanare, perché insomma sta combinando un disastro. Le menzogne legate al trattamento dei rifiuti insomma venissero a raccontarlo a Roncigliano, se l'organico nel settimo invaso è stabilizzato, però insomma misure di controllo di queste operazioni sono praticamente inesistenti. Noi da quello che sappiamo non c'è nessun indirizzo di controllo dell'operazione legata al decreto Clini. Noi, guarda, quello che sappiamo paradossalmente per certo in via ufficiale è l'esito di una di uno studio, di un'analisi specifica commissionata proprio dal ministro Clini sulla discarica di Roncigliano nel mese di febbraio, che insomma aveva portato ad accertare, secondo appunto i carabinieri del NOE di Roma, che a Roncigliano soltanto il 15% circa di frazione del rifiuto indifferenziato veniva estratta, appunto la percentuale di umido, e poi avviata un trattamento adeguato. Basta considerare insomma che l'umido in realtà costituisce circa il 30-35% del rifiuto indifferenziato, quindi sostanzialmente i NOE, proprio su mandato dell'ex ministro Clini, hanno accertato che circa il 20% dei rifiuti che venivano trattati quindi al mese di febbraio scorso nell'impianto del DMB di Albano finivano sostanzialmente appunto nella buca senza un trattamento adeguato, e da qui appunto tutta una serie di problematiche relative all'Olezzo. E da allora appunto si è aggiunto al danno la beffa, perché non sono più 300 le tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati, ma con le 150 circa di Roma siamo a 450 tonnellate, e la situazione veramente è diventata esplosiva. Quindi sicuramente certo è un trattamento inadeguato, sicuramente l'umido finisce in buca, non sappiamo addirittura, anzi possiamo quasi affermare con sicurezza a questo punto, che tanta parte della spazzatura romana, forse ad esclusione del CDR, finisca proprio nel settimo invaso, perché fra l'altro insomma proprio dal 25 gennaio stiamo chiedendo le risultanze del peso di tutti gli automezzi entrati ed usciti dalla discarica appunto proprio da allora, dal 25 gennaio, e nonostante le ripetute e reiterate richieste pubbliche nessuno ha risposto. Invece ecco, basterebbe mettere a confronto il peso di tutto ciò che entra e di tutto ciò che esce per determinare già insomma la possibilità di chiarire perlomeno la frazione dei rifiuti provenienti da Roma. E invece insomma questo non c'è, l'azienda continua a difendersi, non ci crederete, insomma sostenendo delle tesi incredibili, ma soprattutto spargendo grossissime quantità di profumi dolciastri, ma grossissime quantità in tutta l'area, quindi vaporizzandolo in tutta l'area proprio intorno alla buca, situazione che desta veramente uno stato vomitevole che permane per ore e ore, soprattutto dalla sera fino all'alba, in tutte le aree circostanti alla discarica. E, insomma, ci ricordiamo che ormai sono due settimane che non ha aperto il sito della Falcognana per accogliere i rifiuti solidi urbani. È evidente che sull'asse dell'Ardeatina il via vai di automezzi dell'AMA è diventato probabilmente talmente importante, se non vitale, per la città di Roma. Cioè la capacità e lo smaltimento della città di Roma è ampiamente legato all'esistenza e allo sfruttamento di questa discarica, che in realtà dovrebbe lavorare per un bacino di comuni della provincia. E quindi insomma la discarica della Falcognana fortunatamente non è stata aperta, è lì che avevano in mente di portare ulteriori quantità di rifiuti, sempre come raccontano insomma dai giornali, trattati, stabilizzati. Questo non è successo, e quindi insomma la situazione va da sé che per comodità stanno insomma intensificando lo sfruttamento di quella dell'altro sito, quello della di Roncigliano, visto che poi a conti fatti è anche il più vicino a Roma, perché insomma se pensiamo di andare a Colfelice o a Viterbo 300 km andata e ritorno, quando con una sessantina stiamo comodamente a Roncigliano, è evidente quello che sta succedendo. Dai giornali si apprende che Maglio Cerroni c'ha più di qualche problemino sul post Malagrotta, sul capping della discarica di Malagrotta. Questo argomento è molto importante, perché è un altro elemento che ci fa pensare e che dà insomma anzi più di una certezza che il trattamento dei rifiuti nella regione è un'assoluta bufala, perché insomma Maglio Cerroni pretende di chiudere la discarica di Malagrotta, fare il capping con 1.200.000 metri cubi di terreno vegetale, che insomma se è lo stesso terreno vegetale prodotto dalla stabilizzazione dell'umido, sono 1.200.000 metri cubi di immondizia da stoccare ulteriormente nel sito di Malagrotta, sito che non è chiuso perché insomma dentro quel quadrante, dentro la città dello smaltimento dei rifiuti, c'è parecchia robetta, almeno tre tipi diversi di discarica, un inceneritore che ormai non funziona da un paio d'anni, l'inceneritore ospedaliero. È evidente che continuare a parlare del della chiusura di Malagrotta come un successo è insomma mentire spudoratamente, però qualche crepa si sta cominciando a delineare in questa situazione, soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento e lo stabilizzazione della frazione organica, perché a Mario Cerroni è stato fatto presente che insomma il terreno vegetale di cui parla, se è il fosso, insomma assolutamente non è adatto per fare un capping. E poi tra l'altro arrivano notizie che alcuni camion che da Roma vanno verso il nord Italia vengono fermati e si annotano parecchie irregolarità nella conformità dei carichi, e insomma il tal quale non è stato, insomma le aziende del nord non hanno vinto una gara d'appalto per smaltire tal quale, ma un rifiuto stabilizzato che però in realtà non è arrivato. E insomma in tutto questo insomma noi sentiremo il comitato di Fiumicino per farci raccontare cosa succede a Cupinoro, che a quanto pare è la prossima carta da giocarsi per prendere tempo e cercare di mettere una toppa a una situazione che insomma sta diventando assolutamente disastrosa. E Daniele, insomma, se ci vuoi ricordare l'appuntamento preciso per il 19. Sì, intanto ecco, noi ci vedremo sabato prossimo, quindi 19 ottobre alle 9 ci sarà un nuovo sit-in davanti ai cancelli della discarica di Roncigliano. Chiederemo e ribadiremo ancora le domande che ormai insomma stiamo facendo da tantissimo tempo, insomma stiamo chiedendo la riapertura, revisione e l'annullamento dell'autorizzazione integrata ambientale, quella famosa del 13 agosto 2009, sostanzialmente col via libera dell'allora giunta regionale Marrazzo, che aveva dato il via libera alla costruzione dell'inceneritore. Stiamo chiedendo però anche che venga annullata la convenzione preliminare Coema GSE, gestore dei servizi energetici, che sostanzialmente ancora oggi garantirebbe l'uso dei fondi pubblici, quindi i famigerati CIP 6, per la costruzione di un'opera inutile, dannosa e costosa. Ma stiamo chiedendo appunto anche l'analisi della qualità dell'aria, l'analisi delle falde acquifere interne ed esterne, quindi al centro di smaltimento dei rifiuti dei Castelli Romani, quindi alla discarica di Roncigliano. Stiamo chiedendo appunto di pubblicare le risultanze del peso degli automezzi che entrano e escono dalla discarica. Quindi le domande che facciamo ormai veramente da tanti anni sono tante, e in più insomma dalla parte nostra abbiamo insomma tanta gente che vive insomma non soltanto proprio nelle zone immediatamente limitrofe alla discarica, ma tanta gente che appunto alimenta e dà vita ormai da 6 anni a questa vertenza. Siamo sicuri insomma ecco che ancora una volta riusciremo ad organizzare, fra l'altro ecco proprio il sabato successivo 26 ottobre ci sarà anche da Piazza Mazzini proprio ad Albano, quindi dal raccordo, al grande raccordo anulare, uscita Appia 24 chilometri, Piazza Mazzini Albano, quindi ci sarà un corteo, il 13° del comitato No Inch. Quindi questi due appuntamenti pubblici per il momento rappresentano forse due aspetti importanti, due modi per ribadire la necessità quindi di un nuovo ciclo dei rifiuti e soprattutto un no alle discariche, agli inceneritori, agli impianti cosiddetti a biomassa o a biogas, e sicuramente un'apertura alla raccolta differenziata porta a porta, riduzione, riciclo e riuso. Ecco, questi saranno i nostri motti, queste saranno di nuovo le nostre domande, e siamo sicuri appunto che questi inceneritori riusciremo a fermarli, e speriamo anche di riuscire a far chiudere questa discarica che continua ad appestare da tantissimi anni, ormai siamo a 34, tutti i Castelli Romani. Allora Daniele, ti ringraziamo per questa intervento e per averci spiegato insomma cosa sta succedendo ad Albano e a Roncigliano e le mobilitazioni che vengono intraprese. Ci insomma risentiremo per gli aggiornamenti e per le dirette dalle mobilitazioni, quindi un saluto e un arrivederci. Grazie per l'ospitalità. Allora, ciao. Ciao. E quindi adesso, dopo insomma questa corrispondenza, torneremo a parlare di rifiuti, perché insomma le iniziative sono molte e sparse un po' su tutta l'estrema periferia, la provincia di questa della provincia di Roma. E quindi una canzone e poi torniamo.

E sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre impatto, abbiamo chiuso con una corrispondenza da Albano Laziale, una settimana di mobilitazioni intense, sia a livello qua regionale, provinciale che nazionale. Abbiamo raccontato insomma che sabato 19 ottobre ci sarà questo presidio davanti ai cancelli della discarica di Roncigliano, però vogliamo ricordare un altro appuntamento che ci pare molto importante, perché poi dà anche il segno di un ragionamento e di passaggi di presa di coscienza da parte del movimento contro la discarica della Falcognana nella zona del Divino Amore, perché questo mercoledì 16 ottobre alle 18.30 ci sarà un corteo che partirà dalla rotonda di Santa Palomba e arriverà a via Pianzavelli alla sede dell'Ecofer. L'Ecofer ha la sua sede sempre ad Albano Laziale, in via Pianzavelli, località Pavona. La manifestazione è indetta per protestare contro la presenza della discarica della Ecofer al 14° chilometro della via Ardeatina, discarica che da una decina d'anni ospita le parti di plastica delle automobili, e logicamente e fortunatamente chiedere la chiusura di questa discarica è un passaggio, un elemento assolutamente indispensabile per scongiurare nuovi ampliamenti, nuovi ingrandimenti, cambi di destinazione d'uso, e quindi magari aggravare la situazione ambientale che è già abbastanza critica su tutto l'asse dell'Ardeatina. E quindi un'iniziativa che colpisce nel segno proprio per il passaggio nuovo, quello di insomma combattere contro una discarica che è già presente su quel territorio, che già dei danni ha combinato e che è l'unica garanzia per impedire che nuovi tipi di discariche aprino in quel sito, in quel quadrante. E quindi ripetiamo l'appuntamento, è mercoledì 16 ottobre alle 18.30, corteo dalla rotonda di Santa Palomba a via Pianzavelli, dove c'è la sede dell'Ecofer. L'iniziativa è a difesa insomma dell'agro romano, quello insomma è uno degli ultimi spicchi di agro romano, e vedrà insomma è organizzato dal presidio no discarica del Divino Amore. Continuando a parlare di rifiuti, adesso ci cercheremo di mettere in contatto con il comitato di Fiumicino per un aggiornamento sulla situazione di Cupinoro. A Cupinoro verranno dirottate 20.000 tonnellate di rifiuti dalla città di Roma, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, verranno dirottati per un periodo limitato, ma insomma crea grossa preoccupazione questa decisione, perché il sito di Cupinoro, insomma, come lo è la Ecofer sull'Ardeatina, ha tutte le potenzialità per diventare una nuova malagrotta. E quindi insomma un minuto per metterci in contatto con Fiumicino, e ci risentiamo tra un attimo. Cup's already overfilled, yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are choking. Allora, sempre qualche minuto di pazienza, stiamo cercando di metterci in contatto con Fiumicino per un aggiornamento sulla questione della discarica di Cupinoro a Bracciano, confinante col comune di Fiumicino, il comune di Cerveteri, una vicenda che si inserisce a pieno titolo nel post Malagrotta e nella... in cui si intrecciano sia le questioni del post Malagrotta sia l'annosa questione del trattamento e della stabilizzazione dei rifiuti organici, ed è serve insomma per chiudere il quadro di quello che sta succedendo in queste settimane molto intense di mobilitazioni, perché insomma, come abbiamo ricordato, ci sarà una manifestazione, un corteo mercoledì 16 ottobre alle 18:30 dalla rotonda di Santa Palomba a via Piansavelli verso la sede dell'Ecofer, e poi un presidio sabato 19, presidio davanti alla discarica di Roncigliano a via Ardeatina chilometro 24 e 500, quindi sull'asse dell'Ardeatina in un raggio lungo i 10 chilometri di quei 10 chilometri assolutamente micidiali di nocività di cui è costellata la via Ardeatina. Per questa settimana abbiamo due iniziative, continuiamo a provare a chiamare Fiumicino e ci risentiamo tra qualche minuto. E allora sfumiamo la canzone, perché siamo riusciti a metterci in contatto con Fiumicino, come avevamo detto in precedenza, per parlare di questo nuovo capitolo del Toto di Scarica, del post Malagrotta, ma insomma anche della vicenda della stabilizzazione della frazione organica. Pronto Carla, ci senti? Sì, vi sento benissimo, ciao. Ciao. E quindi niente, abbiamo raccontato anche la scorsa settimana della decisione del comune di Bracciano di ospitare dietro pagamento, mi pare 20.000 tonnellate di rifiuti. 20.000 tonnellate di rifiuti trattati di Roma. Trattati tra milioni di virgolette di Roma. Insomma, di come l'amministrazione comunale, che poi è la proprietaria del sito della discarica al 100%, proprietà del comune di Bracciano, quindi una discarica pubblica. Cosa a cui insomma non siamo assolutamente abituati, visto insomma lo strapotere del patron dei rifiuti Maglio Cerroni, però una discarica pubblica che comunque insomma i suoi bei disastri gli già sta combinando, e questa ulteriore arrivo di 20.000 tonnellate a Roma pare essere insomma anche un segnale molto preoccupante, perché lì a Cupinoro, come alla Ecofer del Divino Amore, alla Falcognana, ci sono tutti i presupposti per poi andare a creare veramente una nuova Malagrotta, e quindi insomma l'allarme tra le popolazioni si è diffuso. Se ci puoi parlare delle iniziative, se ci sono aggiornamenti su questa vicenda. Allora, diciamo che quello che preoccupa non solo Bracciano ma anche i comuni limitrofi, per cui anche noi di Fiumicino, sono non solo queste 20.000 tonnellate che comunque si perdono nel mare delle migliaia di tonnellate di rifiuti che produce Roma, e che in parte quindi potrebbero prendere la via di Cupinoro, che è il nome di questa discarica che sta appunto a Bracciano. Quello che preoccupa è quello che c'è dietro le 20.000 tonnellate. Questo noi come Rifiuti Zero Fiumicino lo diciamo dall'inizio, da diverso tempo. Quello praticamente è un territorio vastissimo, sono migliaia di ettari, più di 69.000 ettari di terreni praticamente pubblici di proprietà delle università agrarie. E questi terreni vengono dati in concessione, e così è partita anni fa la discarica di Cupinoro, per l'appunto, che era privata, gestita da personaggi anche legati al mondo delle ecomafie in qualche modo, con smaltimento di rifiuti non legale, diciamo. E quando è diventata pubblica, appunto con l'avvento della Bracciano Ambiente, che è una società, come dicevi tu, pubblica, e il cui azionista unico praticamente è il comune di Bracciano, in buona sostanza. Quello che ci preoccupa, torno a dire, è quello che c'è dietro le 20.000 tonnellate. Allora, noi sappiamo che da più di un anno è stato presentato un progetto per richiedere un ampliamento della discarica, un nuovo invaso che si chiama Vaira 1. Vaira è il nome del proprietario delle cave che stavano in quella zona, il vecchio proprietario, diciamo. Questo progetto Vaira 1, che è in attesa di rilascio della via da parte della Regione Lazio, è un invaso di 450.000 metri cubi, che è una volumetria assolutamente esorbitante rispetto alle necessità attuali e future, parlo di 10 anni perlomeno, dei 25 comuni che conferiscono a Cupinoro. Quindi sovradimensionato rispetto al bacino già esistente. Al bacino già esistente, che a detta del sindaco Sala di Bracciano, a detta del... Scusa, una domanda. Sindaco in quota, quale partito? PD. Ok. Parliamo del sindaco PD, che è Sala. E oltre alle dichiarazioni di Sala, che chiaramente rassicura dicendo che non si tratta assolutamente, non sarà assolutamente la nuova Malagrotta, ci sono anche le rassicurazioni del sindaco di Ladispoli, che si chiama Paliotta ed è un PD anche lui, e del sindaco di Cerveteri, che è una lista civica, che si chiama Pascucci, Alessio Pascucci, che rassicurano i residenti. Cito loro tre perché sono i comuni più densamente abitati, perché i 25 comuni che conferiscono a Cupinoro sono comuni che viaggiano anche sotto i 10.000 abitanti, quindi sono comuni minori. Comunque questi tre sindaci e anche il sindaco di Anguillara hanno rassicurato tutti dicendo che non sarà la nuova Malagrotta. Il problema però è che per non essere la nuova Malagrotta non si devono creare le condizioni perché possa diventarlo. Quindi farsi autorizzare un invaso da 450.000 metri cubi è porre una delle condizioni che magari non subito, ma a breve, magari tra qualche tempo, quando la situazione quando cade l'attenzione su questa situazione, può diventare realmente una nuova Malagrotta, perché oltre ai 450.000 metri cubi lì c'è una disponibilità di 1.200.000 metri cubi da poter utilizzare con eventuali altri progetti. Vaira 1 sarebbe questo, poi potrebbe esserci un Vaira 2, Vaira 3, Vaira 4 e così via. Gli spazi sono enormi e questo succede nonostante quest'area sia abbia dei vincoli, è una zona archeologica, è zona ZPS, zona protezione speciale, ha altri vincoli legati proprio al paesaggio, e nonostante questo la regione ha già rilasciato una valutazione di incidenza ambientale dicendo che dal momento che sì, ci sono questi vincoli, ma poiché il comprensorio appunto conta decine di migliaia di ettari, questa è una frazione tutto sommato sacrificabile. Questo è il discorso di fondo. Ah, okay. Quindi l'agitazione nasce non solo e non tanto per queste 20.000 tonnellate di rifiuti cosiddetti trattati, che poi sarebbero trattati per il Lazio, ma abbiamo visto che al nord non li vogliono, no? Perché evidentemente il trattamento qualche problema ce l'ha. È sicuramente, no? E per cui però a parte le 20.000 sono le altre, perché creare un invaso così grande con che lo riempi? No, ma insomma, no? Certo, è evidente che il rischio è quello. Io ho fatto il parallelismo con il sito della Falcognana, insomma lì per le stesse ragioni gli spazi, le volumetrie, le capacità per fare qualcosa di molto più pericoloso ci sono, e certo, quindi insomma è evidente che l'allarme è costante, e insomma il parallelismo e la questione di fondo, certo, rimane sempre quella. Prima insomma hai citato l'autorizzazione regionale, ma non ti riferivi all'AIA. Se invece hai qualche notizia su questo documento. No, rispetto a questa via che dovrebbe essere in esame per l'appunto per questo progetto Vaira 1, sembra che oggi si sia riunito qualcuno in regione appunto per esaminare o rilasciare, non sappiamo bene, la via, ma al momento non abbiamo aggiornamenti. Quindi stiamo lì, insomma, cerchiamo di seguire la questione per evitare che possa succedere il peggio, insomma, anche perché dimmi. No, siamo lì, quindi insomma ci sono anche picchetti, presidi all'ingresso del... Stamattina dalle 6:30 fino all'orario di chiusura della discarica, che è intorno alle 3:15 più o meno, si sono alternate persone del territorio, insomma, per bloccare i camion, ne sono stati bloccati un paio in entrata, un paio in uscita. Abbiamo visto che c'erano camion parcheggiati più o meno nelle strade, no? Dei dintorni. In attesa. Adesso, sicuramente stamattina forse non si aspettavano che ci fosse questo tipo di mobilitazione. Domani stiamo verificando, insomma, con gli amici di Bracciano, che poi insomma sono loro che vivono lì direttamente sul territorio, quindi noi da Fiumicino partiamo nella misura in cui Bracciano, no, chiede un nostro supporto, insomma, quindi se c'è la necessità e se si ripeterà continueremo tutti i giorni davanti alla discarica. So che domani c'è anche un consiglio comunale convocato a Bracciano per l'appunto su questa questione, e quindi ci sarà una presenza attiva anche in consiglio comunale. C'è una chiamata di un presidio sotto la regione organizzata da un altro comitato territoriale per mercoledì pomeriggio, per il 16 pomeriggio. Sono previsti tavoli informativi, insomma, su tutto il territorio di Bracciano. Bracciano è un territorio abbastanza vasto e anche distante, se vogliamo, dalla discarica vera e propria, dal sito della discarica, per cui c'è anche la necessità di di far capire a chi vive a Bracciano che ospita qualche cosa che può diventare, per l'appunto, già è una discarica che crea non pochi problemi, perché è una discarica di tal quale analogamente a come lo è Malagrotta, come lo era, con la sola differenza che per Malagrotta è stata aperta una procedura di infrazione, per Cupinoro ancora no, ma la situazione è quella, è una discarica più piccola ma che ospita rifiuti indifferenziati dal 77-78, quindi insomma ha una bella storia alle sue spalle, no? Eh sì, tutti i siti quindi antichi hanno più o meno quella data, fine anni 70, che poi coincide con il cambio dei consumi in questo paese, che insomma, certo, ha portato un aumento vertiginoso della produzione dei rifiuti. È cambiato proprio il modo di consumare, cioè si è diventato consumatori e non utilizzatori di prodotti che realmente ci servono, insomma, però abbiamo un discorso molto più complesso. Quindi per il momento siamo lì, da Fiumicino cerchiamo di seguire e le nostre situazioni, che non sono rose, perché lo introduco soltanto, noi facciamo da centro di trasferenza per tutti i rifiuti umidi di Roma, per tutti, per 155.000 tonnellate, per la durata fino a giugno 2014. Sì, non voglio fare pubblicità all'azienda, ma insomma si parla di quest'umido fantastico che insomma ha delle qualità fertilizzanti assolutamente uniche. E sicuramente, tant'è che quello che già veniva prodotto a Maccarese, gli agricoltori di zona non l'hanno mai voluto perché non era utilizzabile in agricoltura, impermeabilizza i suoli. Già partendo da questo esempio, un'altra insomma constatazione del fatto che il trattamento dei rifiuti è inesistente. Infatti l'umido che andrebbe prodotto dentro questo mega centro di compostaggio ha grossissime difficoltà, proprio perché lì di organico arriva una parte, insomma ben poco, e mischiato con altro. Ma sicuramente, se consideri che dentro Roma quando cammini trovi cassonetti neri a fianco a quello, mi sembra marrone, dell'organico, c'è cioè il cassonetto che recita rifiuti organici e indifferenziati, quindi per non sbagliasse chiaramente, ma è chiaramente è molto fuorviante, perché adesso noi più o meno parliamo di monnezza tutti i giorni. Ma un cittadino qualsiasi che sta davanti a due cassonetti e legge indifferenziato e umido e dall'altra parte umido può pensare che sia più o meno la stessa cosa. Dove gli arriva più facile alzare il coperchio, mette dentro. Quello arriva a Maccarese. Per farci cosa? Assolutamente niente. Cioè non ci fai quello che sostieni di volerci fare. Quindi diciamo che sono tante le questioni che ci preoccupano. Beh, insomma, con un po' di soddisfazione le mobilitazioni su questo argomento, per forza di cose, si stanno interconnettendo. Perché volevo dire, scusami se ti interrompo, stamattina sono venuti anche degli amici da Falconiana, quindi insomma va bene tutto questo. Il toto di scarica, come diciamo sempre, ha favorito la nascita e la crescita di una coscienza diversa anche fra persone che ignoravano completamente che i rifiuti fossero un problema e di quale natura fosse sì, questo problema. Ha dato anche una mano, insomma, nel combattere magari sindromi nimbistiche che in questo contesto insomma sono assolutamente deleterie. Invece, se riusciamo a affrontare questa vicenda in tutta la sua complessità, certo, anche territoriale, esprimiamo una forza molto maggiore e creiamo parecchi più problemi a chi invece insomma non dà assolutamente risposte, anzi continua invece ad avvelenare territori, popolazione in un modo o nell'altro, con un impianto o con un altro, però è sempre affrontare il problema dalla coda, mai dalla testa. Quindi possono cambiare le tecnologie, ma il problema rimane sempre là, insomma. Ecco, adesso è uscito fuori il biogas per qualche cosa, magari fra qualche anno, no, lo chiameranno in un altro modo, ma ecogas saranno lì, insomma, ecco. Non se ne viene fuori. Allora ti ringraziamo per questo aggiornamento dal quadrante Fiumicino Bracciano, insomma zona nord di Roma, e noi ti salutiamo e insomma chiudiamo anche la trasmissione con la tua corrispondenza. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. E insomma, abbiamo chiuso con questa corrispondenza, chiudiamo la trasmissione, ricordiamo gli appuntamenti di questo settembre-ottobre molto impegnativo sul fronte rifiuti. Poi inoltre le iniziative della settimana sono un'infinità, 18 e 19 vedono due cortei al centro di Roma per rivendicare condizioni di vita migliori un po' su tutto, un po' in tutti gli ambiti della nostra esistenza. Noi mettiamo un po' più invece in diamo un po' più di facciamo un po' più di pubblicità alle iniziative contro le nocività, e quindi questo mercoledì 16 ottobre alle 18:30 un corteo che partirà dalla rotonda di Santa Palomba e andrà via Piansavelli alla sede dell'Ecofer. La rotonda di Santa Palomba si trova sempre sulla via Ardeatina al 20° chilometro. L'iniziativa è del presidio No Discarica Divino Amore. E invece per la mattina di sabato 19 ottobre un presidio di fronte ai cancelli della discarica di Roncigliano, ci spostiamo al 24° chilometro della via Ardeatina, presidio per denunciare le condizioni assolutamente disastrose e pericolosissime per la vita umana e per l'ambiente che si stanno e si sono determinate dentro la discarica di Roncigliano e dentro il settimo invaso. E quindi sabato 19 ottobre dalle 9 di mattina presidio davanti ai cancelli della discarica di Roncigliano al 24° chilometro della via Ardeatina. Con questo, per questa settimana è tutto, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, un particolare saluto a chi è privato della propria libertà, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Arrivederci. E prima di mandare lo stacco musicale, sicuramente un ringraziamento al Tappabuchi che anche oggi ci ha concesso, o anzi mi ha concesso, una decina di minuti di sforamento. Arrivederci a tutti. Full steam. Sweet to be, sour too nice to be me. When